in primo piano. E dunque, buongiorno Salvatore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Quanto è il rilievo oggi dedicato a Schumacher che torna? Scusa, una curiosità personale. Beh, praticamente quasi tutti i giornali hanno il titolo in prima pagina, molti giornali gli hanno dedicato anche una bella foto, molti l'hanno accostato all'altra notizia di sport della giornata, che è il bis di Federica Pellegrini nei 200 metri stile libero ai mondiali di Roma. Buon lavoro dunque. Bene, grazie, grazie. Tanto sport, dicevo, ma certamente sono i temi economici ancora a tenere banco sulle prime pagine di quasi tutti i giornali. C'è da segnalare senz'altro un segnale di importante di ottimismo che arriva dagli Stati Uniti, con Obama che parla di fine, insomma, di fine vicina, quasi fine della recessione. E ci sono ancora tante polemiche e tante aperture di giornali dedicate invece alla questione, quella che abbiamo definito la questione meridionale, quindi la destinazione dei fondi per il Sud. Ritorna anche molto sui giornali di oggi la polemica sul test di dialetto per i professori devo dire che molti giornali dedicano anche una notevole attenzione a questo accordo tra Microsoft e Yahoo per contrastare, diciamo così, il dominio assoluto di Google su internet. Bene, ma passiamo a vedere i temi principali. Io partirei con Obama. Il Corriere della Sera, ad esempio, dedica alla dichiarazione di Obama il suo titolo di apertura: Obama, fine della crisi più vicina, disoccupazione e finanza, non siamo più in caduta libera. Dal presidente americano arriva un messaggio di fiducia sullo stato dell'economia. Il Corriere associa questo titolo di apertura a un articolo di fondo scritto da Mario Monti, che in realtà non riguarda in modo diretto le dichiarazioni di Obama, ma quanto, diciamo, associa alla possibile uscita dalla crisi l'importanza di una riforma della politica della concorrenza e quindi dell'antitrust. All'interno Obama, sempre sul Corriere: l'economia non è più in caduta libera, e poi alcune dichiarazioni. Ai cittadini USA il presidente dice: non so se avete visto la copertina dell'ultimo numero di Newsweek, diceva: la recessione è finita, abbiamo salvato GM e Chrysler, ma mi aspetto che ci restituiscano i fondi ricevuti. Sempre sul Corriere poi, molto interessante, curioso anche, lo hanno anche naturalmente altri giornali, un articolo sull'effetto della crisi sul presidente della Federal Reserve, la banca centrale americana, Ben Bernanke. Il super banchiere USA perde un terzo dei suoi investimenti. Leggiamo alcune righe dell'articolo di Antonia Iacchia. Ha speso gran parte della sua carriera a studiare la Grande Depressione, ha incassato dalle colonne del New York Times il plauso dell'economista Rubini, che gli attribuisce il merito di aver evitato che la recessione seguita al crollo dei mercati si trasformasse in una depressione che sembrava molto verosimile. Eppure nemmeno il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, è riuscito ad attraversare indenne lo tsunami finanziario. Al contrario, nel 2008 ha visto assottigliarsi il proprio patrimonio del 29%. Il suo patrimonio è sceso, pare, da 2,5 a 1, milioni di dollari. Insomma, diciamo che si è impoverito, ma non è proprio messo malissimo. Anche il Sole 24 Ore, ovviamente, dedica al tema, alle dichiarazioni di Obama, segnali di ripresa, la grande foto di prima pagina. Obama e BCE, quindi Banca Centrale Europea, crisi alla fine, c'è la svolta. Secondo il presidente Barack Obama, l'economia USA sta mostrando l'inizio della fine della recessione, anche grazie ai salvataggi pubblici delle banche che hanno allentato la stretta creditizia. Su Repubblica lo stesso argomento. Obama, tempi ancora duri, ma la crisi sta per finire. E l'articolo firmato da Federico Rampini. La recessione è finita, è il titolo di copertina del settimanale Newsweek, il pretesto usato da Barack Obama per cavalcare la speranza di una ripresa imminente, incassare i primi dati positivi dall'economia reale e difendere la propria politica economica. Il presidente è cauto, non vuole prestare il fianco alle accuse di ottimismo irresponsabile. Poi all'interno alcuni stralci dell'articolo di Rampini: il sistema finanziario americano non è più sull'orlo del collasso, la perdita di posti di lavoro è due volte meno rapida di quando Obama è diventato presidente 6 mesi fa. Le cose vanno decisamente meglio. E quanto al mercato del lavoro, abbiamo evitato che la recessione si trasformasse in depressione, ma è una magra consolazione se siete fra quelli che hanno perso il lavoro e non riuscite a trovarne un altro. Anche il giornale dedica al tema Obama la propria grande foto e il titolo principale. Si riparte e il titolo, anche Obama ci crede, la recessione è finita. E poi il giornale lega, diciamo, anche i temi economici più prettamente italiani. Quindi da un lato Tremonti che ieri ha detto l'Italia regge, non siamo in declino, e dall'altra parte Berlusconi che vara il piano sud, per il sud subito 4 miliardi. Dunque proprio il sud è la seconda notizia economica di oggi, che troviamo praticamente su tutti i giornali e che immagino anche per i prossimi giorni continueremo a vedere. Il Sole 24 Ore ci apre con questa notizia: via ai fondi per il sud, domani al CIPE i 4 miliardi del FAS, cioè del fondo per le aree sottoutilizzati. Berlusconi difende Tremonti in consiglio dei ministri, domani solo le linee generali del programma per il mezzogiorno, che sarà invece integralmente presentato alla fine di agosto, cioè alla ripresa dei lavori dell'attività politica dopo la pausa estiva. Vediamo che cosa succede domani. Via libera domani a 4,1 miliardi di fondi FAS per la sola Sicilia. E questo è il risultato più concreto del vertice di governo di ieri sul mezzogiorno. Le risorse saranno messe a disposizione dal CIPE. Per il piano più generale per il Sud i tempi saranno più lunghi. Il Consiglio dei Ministri infatti discuterà solo le linee generali del programma, come ha spiegato ieri il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. E poi a fianco il Sole 24 Ore dedica il proprio editoriale, scritto da Stefano Folli, sempre alla questione sud. Leggiamo però ovviamente con un approccio, con un taglio più sugli effetti politici di questa vicenda. Leggiamo uno stralcio dell'articolo di Folli. Fa un certo effetto sentire parlare di Parlamento del Sud da parte di esponenti di una regione, la Sicilia, in cui esiste un'assemblea dotata di poteri non trascurabili garantiti dallo Statuto Speciale. C'è da chiedersi cosa legherebbe fra loro territori così diversi come la stessa Sicilia, la Calabria, la Campania, la Puglia, regioni che piuttosto dovrebbero riconoscere la priorità di una lotta senza risparmio e senza quartiere alla criminalità organizzata, l'autentico e non rimosso ostacolo allo sviluppo economico. Ed è evidente che l'illegalità diffusa si combatte solo attraverso la forza e gli strumenti dello Stato. Ecco un obiettivo per il quale richiedere davvero maggiori risorse, uno Stato più presente e determinato, non remoto e non rassegnato. Anche, torniamo al Corriere della Sera, che pure ha in bella evidenza la notizia del piano Sud, 4 miliardi alla Sicilia, domani i fondi saranno sbloccati dal CIPE. E poi il Secolo XIX, il quotidiano di Genova: soldi subito, ma la rivolta resta. Quindi anche il secolo XIX dà una lettura, diciamo, più politica su quello che sta succedendo. Quindi le risorse si trovano, ma evidentemente i contendenti non avrebbero ancora trovato una condivisione degli obiettivi. Anche il secolo d'Italia, cultura e sud, il governo rilancia, e poi il Messaggero, che dal quale vorrei leggervi una brevissima parte dell'editoriale scritto da Franco Reviglio, Mezzogiorno e opere, la lezione del passato che si può recuperare. Chi scrive, quale ministro del Mezzogiorno, quindi Reviglio è stato in passato ministro del Mezzogiorno, contribuì alla soppressione dell'intervento straordinario, senza tuttavia prevedere che negli anni successivi le competenze delle regioni e delle residue attività ministeriali dello Stato avrebbero nei fatti indebolito grandemente un efficace intervento di programmazione e di realizzazione delle opere di cui il Mezzogiorno ha urgente bisogno, producendo inattività e frammentazione di opere e degli interventi. È un approccio, mi sembra, che ci porta a legare questo tema dell'intervento al sud anche alla struttura dello Stato e quindi i poteri delle autonomie locali e in particolare delle regioni, e proprio questo è il taglio dell'editoriale di Luigi La Spina che troviamo sulla Stampa. Federalismo all'italiana, un paradosso. Proviamo a leggere alcune righe. Dicono che bisogna essere ottimisti a tutti i costi. Allora prendiamo la situazione dall'unico effetto positivo. La polemica sull'identità italiana, esplosa per le tentazioni del partito del Sud, per le provocazioni leghiste sulla scuola, per le esitazioni sui finanziamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia, hanno finalmente fatto uscire dall'ipocrisia, dalla reticenza, dall'ambiguità una questione fondamentale per il nostro paese. Come sia difficile e pieno di rischi l'esperimento di costruire uno Stato federale con un processo contrario a quello normale, cioè non per aggregazione ma per disaggregazione. E sempre sul tema del partito del Sud e delle polemiche sui fondi per favorire e incentivare lo sviluppo nel Mezzogiorno, vorrei leggervi alcune righe, alcune parti dell'editoriale di Vittorio Feltri su Libero. L'articolo si intitola «Il partito del Sud conviene a Bossi», una lettura molto interessante di tutta questa vicenda. «Non c'è verso di fermare la costituzione del partito del Sud. Quello che lo vogliono a tutti i costi non demordono e avranno i loro buoni o cattivi motivi per non desistere neanche davanti alla prova evidente dell'insensatezza dell'iniziativa». Inaspettatamente la Lega Nord si è fatta sentire sul tema dicendo per bocca di suoi alcuni esponenti che in fondo la nascita di un nuovo movimento localistico, sia pure trasversale, è da salutare con ottimismo, con favore. Come? I polentoni per definizione sostengono gli odiati terroni in un'impresa destinata a rafforzare chi chiede di aumentare i finanziamenti al Mezzogiorno, ma poi, riflettendo, abbiamo capito che i bossiani, dal loro punto di vista, non hanno torto. Infatti, dall'inasprimento della polemica nord-sud, essi, sotto il profilo elettoralistico, possono solo guadagnare, come dimostra l'esperienza. Non dobbiamo mai dimenticare che il successo del Carroccio fu alimentato in prevalenza dal sentimento antimeridionalista, al quale non era stata data alcuna forma organizzata prima che Bossi andasse nelle valli a raccogliere consensi sul proprio progetto. Quale progetto? Sintetizzo rammentando lo slogan nordista di quei tempi, scusate. Ciascuno sia padrone in casa sua, che voleva dire ne abbiamo piene le scatole di insegnanti, magistrati, impiegati e in genere provenienti dal sud. Basta con questo tipo di colonizzazione. Quindi questa è la lettura che della vicenda da Libero, l'editoriale di Vittorio Feltri su Libero, che in qualche modo ci allaccia e ci lega al tema successivo, che è quello della scuola e del dialetto. Quindi dopo le polemiche di ieri sulla proposta giunta in Commissione Cultura alla Camera per sottoporre a una sorta di test di lingua. In realtà poi si è capito che era una cosa insomma un pochino più articolata, comunque gli insegnanti. Ecco, oggi tutti i giornali ritornano anche nelle prime pagine sui temi. Lo fa per esempio La Stampa con un'intervista al ministro Gelmini che in qualche modo apre, seppure insomma con cautela, alla proposta leghista. Gelmini: giusto che i prof si scelgano sul territorio, bisogna mettere fine al via vai tra mezzogiorno e il territorio, leghiamo il reclutamento dei professori alla loro residenza, necessario però mettere fine, abbiamo già detto, al via vai di insegnanti tra nord e sud. Sulla Stampa sempre però si registra anche una certa frenata della Lega. Dunque Roberto Cota, che è capogruppo della Lega Nord, ha dichiarato ieri, ed è questo il titolo della Stampa: abbiamo parlato soltanto di test regionali per i docenti, ma è scontro contro il PDL. Quindi anche questo è un tema che in qualche modo sta come dire, animando i rapporti tra la Lega e gli altri gruppi partiti della maggioranza. Anche sulla Repubblica il Carroccio precisa: non parlavamo di dialetto, scuola, ora la Lega vuole test regionali per i professori. La Gelmini apre, discutiamone. Quindi anche qui le dichiarazioni del ministro Gelmini. Sul Corriere della Sera il tema è affrontato in un bell'articolo che di fatto è di apertura sul giornale, scritto da Gian Antonio Stella. Ve ne leggo un breve passaggio. La scuola, come sa chi raggela davanti a certe classifiche internazionali che vedono il nostro paese in drammatico ritardo, con la luminosa eccezione di alcune regioni settentrionali piene zeppe, a sentire il Carroccio, di docenti cetterroni, non ha bisogno di maestri e professori che sappiano recitare in bergamasco. 5 sacchi di legna secca costano care ovunque. Vi risparmio la citazione in bergamasco perché verrei anch'io bocciato. Ma di maestri e professori che conoscano e sappiano insegnare al meglio la matematica, la fisica, l'inglese, la storia e l'italiano. Ancora sul tema, mi sembra interessante un approfondimento molto ampio dedicato da R2 di Repubblica, quindi l'inserto di approfondimento, l'Italia dei dialetti, con alcuni articoli molto interessanti. Vi cito quello di Dario Fo: quant'è insensata la richiesta da parte della Lega di imporre agli insegnanti lo studio del dialetto? A quali dialetti fa riferimento? Prendiamo una regione come la Lombardia. Ci sono almeno 20 variazioni differenti, tutte con una struttura diversa l'una dall'altra. Il dialetto che si parla a Bergamo ha un suo lessico, una sua fonetica, un suo modo di concepire il pensiero, una sua ritmica sonora del linguaggio. Ma le altre forme di dialetto bergamasco sono diverse da quelle che vengono utilizzate da un abitante di quella parte della Lombardia che si affaccia all'Emilia, così come da quelle di chi vive al nord-est vicino al Veneto. Mantova, Bergamo e Brescia sono 3 città che hanno un lessico autonomo e differente, perché le loro spalle hanno una storia molto diversificata. E poi via via spiegare le 1000 differenze dei dialetti, anzi in realtà 6000, perché il titolo grande della pagina successiva è Un paese, 6000 lingue. E poi una bella infografica, un'Italia disegnata piena di monumenti, con 22 modi diversi per pronunciare la parola, per dire la parola pipistrello. Molto molto curioso, molto interessante. Bene, archiviamo anche la parte legata al dialetto e ritorniamo a un tema economico che pure ha trovato molta molta eco sui giornali di oggi. Mi riferisco all'accordo al patto tra Microsoft e Yahoo sul motore di ricerca. Cerchiamo di capire dai giornali un pochino che cosa è successo, ma leggiamo sul Sole 24 Ore in prima pagina: Microsoft e Yahoo stringono un'alleanza decennale per sfidare Google. Dopo un anno e mezzo di incertezze È andato in porto l'accordo che fra la casa produttrice di Windows e il secondo motore di ricerca del mondo, che lavoreranno insieme su tecnologia e pubblicità online per arginare lo strapotere del numero uno, cioè Google, che detiene il 65% del mercato web. In base all'intesa, Yahoo manterrà il controllo della raccolta pubblicitaria e adotterà la tecnologia Bing di Microsoft per il proprio motore di ricerca. Dopo l'assalto fallito nel 2008, quando Microsoft tentò di comprarsi Yahoo con un'offerta ostile da 47 miliardi di dollari, il gigante di Redmond è finalmente riuscito a centrare il proprio obiettivo industriale. L'accordo dovrà essere sottoposto alle autorità USA e americane e europee sulla concorrenza. Su Repubblica, Microsoft sfida mondiale a Yahoo, alleanza con Yahoo su motori di ricerca e pubblicità online. Anche il termine sfida torna anche sul Corriere della Sera. Alleanza Microsoft-Yahoo, sfida a Google dopo 3 anni di trattative, accordo decennale per la ricerca online e per la pubblicità. Mi sembra interessante segnalare che a questo tema dedica la propria immagine, in pratica la propria copertina, anche il Manifesto. Il titolo è "Una tigre nel motore, matrimonio strategico nella Silicon Valley. Microsoft e Yahoo firmano un accordo decennale per contrastare il dominio di Google sulla ricerca e sulla pubblicità in rete". Poi la notizia è che si aspetta comunque il giudizio dell'antitrust americano. Ma a questo tema il Manifesto dedica anche il proprio editoriale, quindi il potere dell'algoritmo, Marco Deramo, e cerchiamo, leggendolo, anche di capire e di interpretare questa scelta del Manifesto. Scusate. Google e Microsoft stanno alla rete informatica come Boeing e Airbus alla costruzione di aeroplani. Sono i due rivali che si contendono il potere planetario nel settore. L'alleanza siglata ieri tra Microsoft e Yahoo in funzione anti-Google definisce il futuro del capitalismo mondiale quanto un patto tra le tre grandi di Detroit sull'auto mezzo secolo fa. Già da un anno Microsoft cercava invano di assorbire Yahoo per contrastare Google, che oggi domina il mercato della ricerca, a tal punto che ormai è diffuso il verbo googolare, nel senso di ricercare con Google. Allora, Yahoo aveva rifiutato, cioè l'anno scorso, aveva rifiutato un'offerta da 47,5 miliardi di dollari, ma ora accetta una partnership di ricerca da cui non riceve cash, non riceve soldi, bensì l'88% degli introiti pubblicitari che nei prossimi 5 anni saranno generati dal nuovo business, in cui userà come provider di ricerca sui propri siti il motore Bing, da poco lanciato da Microsoft. E poi, tanto per andare nel concreto, qualcuno si starà chiedendo: ma per gli utenti che cosa cambierà? Beh, la risposta la troviamo, per esempio, in un brevissimo articolo fatto proprio a domande e risposte di Antonio Dini sul Sole 24 Ore, che si chiede: per noi navigatori tutto questo accordo migliorerà le ricerche sul web, ci cambierà la vita? E lui dice: beh, da 1 a 10, 0. Infatti per gli utenti resta in pratica tutto come prima. La tecnologia per la ricerca web, ribattezzata Bing da Microsoft, è una versione migliorata del motore di ricerca già esistente e Yahoo non proporrà nessuna nuova tecnologia. L'accordo Microsoft-Yahoo serve invece a far fronte comune, a ridare fiato a queste due aziende che finora non erano riuscite a contrastare efficacemente Google. Bene, chiudiamo anche questa pagina. Io mi sono, ecco, scusate un secondo, mi sono preso anche un altro tema da segnalarvi. È l'apertura dell'Avvenire, la relazione annuale sulla legge 194 sugli aborti. Un po' meno aborti, ma sempre troppi, dice l'Avvenire. E poi sullo stesso tema anche Su un tema analogo anche il Foglio, RU486, la pillola abortiva, perché oggi la commissione, l'AIFA, la commissione che si occupa dei farmaci, dovrebbe autorizzare l'impiego anche in Italia di questa pillola, con grandi polemiche. Un'altra curiosità, se ho ancora un minuto di tempo, ve la segnalo da Liberazione, che ha nella prima pagina di spalla un articolo, insomma, simpatico, che vi leggo: Marcello Veneziani, ovvero la legge del contrappasso. Marcello Veneziani, scrittore e giornalista, solerte frequentatore di talk show, ci riserva uno shock estivo non da poco. Mi devo ricredere, scrive su Libero di ieri. L'Italia è un paese razzismo, di un razzismo inquisitorio e poliziesco. La sorprendente convinzione si è fatta in lui strada per via delle persecuzioni razziali, sono questi precisi termini utilizzati da Veneziani, di cui egli è stato fatto sistematicamente oggetto in ragione dei suoi tratti somatici, della sua carnagione, del suo aspetto vagamente arabo-islamico. Il tutto è virgolettato, quindi parole prese da Marcello Veneziani stesso. Bene, io qui concludo, vi auguro una buona giornata e restituisco la parola a Irene.